Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo. Siamo rientrati noi di 451 frammenti sonori in questa nottata ormai di novembre inoltrato, un grigio colore che avvolge questa bellissima città sempre più vuota, e noi cerchiamo un minimo di dare un senso a questa serata citando un personaggio che conosciamo nel bene e nel male. Diamo senso, sì, diamo senso a queste cose. Eh sì, beh, il senso comunque lo trovano anche quelli che stanno a casa. Beh, sicuramente, perché, anche con altre cose. Insomma, sotto la copertina magari si scaldano per domani, per la giornata lavorativa o non lavorativa. Quindi la serata o semilavorativa. Una domenica comunque in tutti i casi disperata e disperante per quasi quelli che lavorano che quelli che non lavorano. Sì, infatti quando usciamo dalla tra radio. Poco sono più di quelli che lavorano. Quando usciamo dalla radio non c'è un'anima viva. Ma anche adesso non è che ci anche adesso non c'era molto, a mezzanotte quasi, sono già un po' introdotti. Sei un po' triste per questa cosa. Sto piangendo, ma più per la digestione che ho mangiato bene, però un po' tostarello. No, avresti bisogno di un amaro Antonetto. Un amaro Antonetto, ma ci sono ancora gli amaro Antonetto, è un po' anni 70, vabbè. Anche 60 forse. Adesso andando un po' a bomba all'argomento di stasera, noi 451 frammenti sonori, trasmissione legata alla sperimentazione, alla ricerca sonora, per coloro che si fossero messi casualmente, inopportunamente in ascolto di questa puntata, rientra come al solito la domenica notte in coppia, ovviamente un saluto come al solito dal buon Max Macchia e da Enzo Scarpa. Ecco, e siamo rientrati appunto dentro l'argomento di stasera anche stimolati dal concerto che è avvenuto martedì scorso 2 novembre, non a caso insomma l'hanno messo proprio in quel giorno. Vabbè, andiamo oltre rispetto anche a queste scelte. All'interno della rassegna Gendenbender erano in quel di Bologna, in particolare in un teatro anche un po' inusuale rispetto alle musiche, alle forme di comunicazione antagonista anche da parte di questa formazione storica della musica industriale e non solo, i Throbbing Gristle. È stato anche ovviamente uno stimolo per il tema di questa serata che abbiamo voluto chiamare 451 frammenti sonori, industria al punto di domanda. E questo punto di domanda fondamentalmente è connesso alla nostra idea, alla nostra elaborazione di quello che potremmo noi come 451 frammenti sonori pensare l'industria negli anni zero, alla fine degli anni 90, cioè quello che potremmo definire noi o comunque intravedere noi nelle varie correnti, nelle varie diramazioni musicali che si sono espresse tra gli anni 90 e gli anni zero come un'industria, anche perché non vogliamo trattare né il post-industrial né un'industria che non c'è più, quello insomma storico degli anni 70 e in parte gli anni 80, ma ridefinire secondo la nostra ottica musicale quello che potremmo definire con un punto di domanda e tra parentesi industrial all'interno appunto di questo percorso di stasera. E vedrete che avremo, oltre a gruppi storici dell'industria, anche progetti che escono da scene che abbiamo affrontato soprattutto negli ultimi due anni in maniera persistente all'interno di 451, che noi vogliamo collegare a quella forma sonora, a quell'espressività, a quella costruzione anche progettuale dei vari lavori, e anche progetti invece che possono essere collaterali o ridefiniti da noi appunto industrial dentro un'ottica che cercheremo di dipanare nel corso della serata. E apriamo con ovviamente un gruppo cardine che ha attraversato più volte, sì, come 451. Dire, apriamo con le musiche psichedeliche, mettiamo i Grateful Dead o i Pink Floyd. Sì, infatti. È la stessa cosa, se non era per Cabaret Voltaire e sicuramente per Throbbing Gristle, forse anche più importanti in questo senso, forse non a caso e non sbagliando è considerata la prima band industriale, sia perché Cabaret Voltaire poi di fatto nascono intorno al 74, anche Throbbing Gristle a dire la verità, però avevano già alcune esperienze come Com Transmission già nel 72, quindi si va veramente a fondare nei primordi ricordi delle musiche elettroniche, non solo sperimentali, cioè stiamo andando a trattare un genere considerato tale che comunque esploderà poi 10 anni dopo, stiamo parlando appunto di 72-74, e in realtà appunto nei primi anni 80 si diffonderà in maniera underground il verbo industrial e influenzerà poi faccende più o meno grosse dal tecnopop, quindi non pensate che insomma trattando di musica industriale non si va a trattare il pop, una parte del tecnopop prende le mosse dall'industria, da certe cose appunto di Throbbing Gristle, il Cabaret Voltaire, quelle cose più schizzate, più futuristiche che poi appunto avranno un trattamento più popular all'inglese, cioè più un impatto di massa, poi lo sviluppo degli strumenti elettronici nei primi anni 80 ha permesso a giovanotti che più o meno venivano dal punk o da musiche che comunque erano influenzate dal 77 rivoluzionario appunto del fai da te, prendiamo comunque le strumentazioni anche se non le sappiamo suonare e suoniamo comunque, e questo è buona parte insomma del grande lascito storico della primissima ondata industrial. Con Throbbing Gristle appunto si va a trovare quella fai da te, quella usare la strumentazione in maniera assolutamente anomala, perché anomala, cioè volevo dire, e perché comunque ci si vuole rimpossessare dei mezzi di produzione anche musicale, e chiaramente si inizia a fare in maniera esplicita una guerra culturale, linguistica, che Throbbing Gristle porteranno veramente fino in fondo, perlomeno nel loro anno di scioglimento 1981. L'ultimo disco sarà proprio La missione terminata. Poi la missione in realtà non è terminata, perché sono ritornati qualche anno fa e parleremo anche di questo ritorno, visto che poi l'altra sera appunto hanno toccato Bologna, ne parlerà Eliseo perché io non c'ero. E anche lì a caso non c'ero, non lo so, magari non so se faccio uscire perché non c'ero. E Throbbing Gristle dal disco di qualche mese fa, Industrial, punto di domanda, chiediamo. Third Movement è appunto il disco di qualche mese fa di Throbbing Gristle, per iniziare 451 frammenti sonori. Thank you. siamo rientrati in diretta dopo questo splendido brano tratto appunto dal disco 2009, uscito, l'ultima uscita dei Trouble in Grister, riformati con la presenza prima del grande Peorage, che poi, questo è giusto ricordarlo, è mancato al concerto dei Trouble in Grister riformati all'Arena del Sole qua a Bologna all'interno di Gendenbender, e ovviamente due paroline, almeno da parte mia che ero presente al concerto, d'altronde non sempre si può essere tutti e due, no Max? Dunque sono stato solo io, buttiamola così, senza andare oltre, anche perché certe cose è meglio che le teniamo fra di noi. Comunque, ecco, se dici così, però non le possiamo tenere tra di noi. Hai ragione, è un po' provocatorio, sai, rimanere un po' nel mezzo del guado. Comunque, al di là di questo, il concerto è stato sicuramente un concerto da ascoltare, valido, interessante, anche se la presenza, ovviamente la mancanza anzi della presenza di Peorage è abbastanza importante all'interno del progetto di Trouble in Grister, ma è sicuramente noi di 451 Frammenti Sonori dobbiamo anche soffermarci rispetto al contesto, all'ambito, a una struttura come l'Arena del Sole, è abbastanza paradossale come spazio dove appunto esprimere una forma di comunicazione come quella di Trouble in Grister, che ha rappresentato in quasi 35 anni ormai, no, di storia, anche una certa attenzione rispetto agli ambiti dove si eseguivano certi concerti o certe forme di comunicazione. Effettivamente l'Arena del Sole era un pugno nell'occhio, una cosa abbastanza paradossale, e andare indiscutibilmente a vedere Trouble in Grister, ascoltare Trouble in Grister in un ambito del genere, piuttosto forte, piuttosto arda anche per dei grandi amanti come noi e Trouble in Grister, tant'è che all'uscita un po' di perplessità c'erano anche come appunto ambientazione dove andare ad ascoltare una grande band che ha fatto la storia della musica, e non solo quella industriale, dagli anni 70 fino ad oggi, anche quando si sono riuniti. E dal Trouble in Grister, che potremo parlarne ancora per molto tempo per la storia e quello che hanno rappresentato, le provocazioni, non solo la militanza politica attraverso il loro progetto musicale, non strettamente connessa a un concetto di militanza che noi pensiamo o ragioniamo in questa bella Italietta, no? Dentro strutture partitico non o gruppi strutturati, militanza politica intesa in senso molto più largo e molto più aperto, e loro hanno veramente fatto questo, sono stati una band fondamentale in questo senso. Per dirvi, anche un sito improponibile per molti versi come il Music li cita nella presentazione come gruppo antagonista, ecco, già sì. Lì si capisce quanto hanno bucato veramente dal punto di vista anche politico e comunicativo. E niente, dobbiamo andare oltre perché il tempo è tiranno, anche perché ci sono dei progetti che hanno bisogno di essere presentati degnamente, ed è Trouble in Grister. Andiamo verso una formazione altrettanto cattiva, ma per altri versi. Sì, se la domanda che ci stiamo facendo questa sera, industrial, punto di domanda, appunto, è legata, insomma, al ritorno di Trouble in Grister e a situazioni anche che forse, la mettiamo così, hanno ben poco a che vedere con l'industrial storico, ma anche come attitudine, come portata, visto che le guerre si sono riaperte per Trouble in Grister. Allora evidentemente non era forse il terreno il campo di battaglia, insomma, forse da solcare, o forse era quello lì, però in una maniera forse differente, insomma, con i vari forse e con le domande dovute che ci facciamo, legate a un'attitudine storica e anche poi a una pratica che comunque ancora esiste, sia sonora che musicale, come voglia e come poi discorso che si sviluppa dentro tattiche o addirittura strategie di antagonismo culturale e linguistico. Sicuramente le scene americane degli anni zero hanno veramente tanto da dire su quell'attitudine, più che parlare appunto di gruppi neo-industriali che si considerano tali, che insomma sfiorano anche piuttosto il ridicolo, e tante volte insomma ci si può imbattere anche con ambiguità, se non addirittura proprio forti degenerazioni del termine industrial. Qualche anno fa addirittura Korn e tutta la scena new metal passava per qualcuno come industrial, ora gruppi insomma che più o meno si rifanno un folk nero, anche di stampo destroyed, perché no, e, detta come va detta, si dichiarano industrial. Qualche esperimento, chiamiamolo così, demenziale di sorta di noise poi vicino al metal, poi di fatto anche questo qualcuno si dichiara industrial, e poi formazioni che continuano a fare musiche che in realtà esistevano già 30-40 anni fa appunto come industriali, e che continuano come si fa con il revival psichedelico o sì, prog o sì, qualsiasi tipo di revival, che con l'industria veramente è hard, sì, è una sorta veramente di contrappasso, come poi in mente Throbbing Gristle dentro situazioni teatrali insomma ufficiali, con Janis Piorici che forse se ne va anche per quello, anche questo è un punto di domanda. Certo. Con Dead Pile però non andiamo assolutamente a trattare queste situazioni insomma perlomeno ambigue se non imbarazzanti. Dead Pile canadesi, però con contatti vari anche con la scena americana, ma soprattutto come impatto, come suono e come attitudine, quindi ai vari Wolf Eyes, Prurient e compagnia rumoreggiante e arsceggiante, visto che poi molte delle formazioni che si rifanno, si sono rifatte a certe attitudini industrial, poi sono state appunto definite arsh, che è un termine insomma che vuol dire duro, dirompente, cose di sto tipo, però dopo magari vi diciamo anche bene qual è la traduzione. Dead Pile riprendono insomma la cattiveria e un suono urticante, e più anche un cantato che per alcuni versi ricorda il grande Janis Piorici, chiaramente appunto con un approccio sonoro decisamente interessante, decisamente attuale, se non addirittura che apre nuovi ponti su nuove faccende, nuove materie, noise, industria, chiamatelo un po' come diavolo vi pare, poi non è quello il problema. There was a greater time span between the first and second, and the second and third. was anywhere else. But I had started to really get into gear towards the end there. I was getting what I think is sicker. And it was much more of a need for more of the blood. And the blood got in the way. It wasn't something I desired to see. Blood was an actual pain in the ass. What I wanted to see was the death. And I wanted to see the triumph. The exaltation over death. It was like eating. Or a narcotic. Something that drove me more and more and more. Pazienza, pazienza, pazienza. Geduld. Ich weiß nicht, wie viel davon noch übrig ist. Außenrum ist alles anders. Die Stadt hat sich verflüchtet. Grenzanlagen sowieso. verschwinden's. Red Mount! Verwischen der Spuren. Ich bin nicht Jack. Bin nicht der König. Red Mount! Bin nicht sein Sohn. War niemals Präsident. Red Mount! Bearing Trevor Torsma. Hell grows. Red Mount. Red Mount. Red Mount. Handshake. Vom Ufer zum Festland. Vom Totenschiff zum Hohen See. Diremo qua che industrial punto di domanda, non si sa qual è la risposta. Una cosa si può dire comunque, che francamente non sentivamo Black Sabbath così in forma più o meno da 20 anni, insomma. Ci è voluta una collaborazione con un personaggio che sembrava completamente all'opposto della faccenda di Blixa Barget, quindi di Esther Zenoibauten, storica voce dell'industrial, insomma, una delle formazioni più blasonate, anche più conosciute anche in termini popular, noto per gli anni 90 e anni 0, ha fatto della glitch music veramente notevolissima insieme ai Keda. Probabilmente è stato uno degli scienziati del glitch, forse più di altri, veramente molto freddo, molto calibratissima la sua musica, ascendente appunto dalla grande scuola tedesca elettronica, seppur con questa metodologia quasi scientifica. Non è stata mai fredda la musica di Noto, però tendenzialmente ha un discorso riflessivo. Invece Blixa trovano veramente un equilibrio incredibile in questo ultimissimo disco, collaborazione stupefacente, diremmo insomma notevolissima come sintesi musicale, perché incredibilmente il glitch in industrial, una memoria industrial di Blixa Barget che qua sembra quasi rigenerarsi e reinventarsi completamente, con appunto un glitch di Noto che non suona più tale, una appunto sorta veramente di sintesi dialettica che veramente sfiora insomma la perfezione per quanto riguarda questo disco, con anche una grande presa diretta. Sono riusciti anche a avere proprio un impatto decisamente pop, tra virgolette popular, quindi ritrovando anche una verve veramente che non c'era veramente da tanti anni per quanto riguarda il Blixa più visionario e più di impatto, appunto. Comunque poi ci sarà modo di parlare, assolutamente, speriamo anche di riascoltarle dentro 451, sì, questo progetto che va avanti, perché questo disco è veramente splendido, una grande sorpresa. Sì, ANBB comunque, Mimicry, è uscito proprio in questi giorni, comunque recentissimo uscito, andatelo a cercare e fatelo vostro. Assolutamente. Noi velocissimamente, perché ormai il tempo è tiranno, tra poco scatterà il Radio Giornale di Radio Popolare Network, ma andiamo all'ultimo brano, che ovviamente sarà un po' contenuto, lo riprenderemo all'inizio della seconda parte. Parliamo dei Rapun, formazione nata negli anni 90 da una costola dei Soviet Friends e in particolare da Robin Story, e dopo riparleremo in maniera più dettagliata. Il disco dei Rapun è proprio l'ultimo lavoro, Dark Rivers, uscito alla fine del 2009. Ci andiamo ad ascoltare questo splendido brano che chiude la prima parte.